capire che il mondo è distante, restare a guardare la vita che prende il volo correndo sopra il cielo nel manto di vento, poter respirare. Credere che sia semplice volare, andare su, lontano, lontano da te, lontano, lontano, lontano da te. Respiri rimasti sulla pelle, lontani come se si fossero fermati d'incanto, violenti solo per poterti rincontrare, assenti, distanti come fossero ormai fuochi spenti. Credere che sia semplice volare, andare su, lontano, lontano da te, lontano, lontano, lontano da te. Sia semplice volare, andare su, lontano, lontano da te.